C'è chi provoca per provocare liti, sotterra dinamiti sotto i culi dei tipi più miti. Sono banditi, banditi, dagli educati, insulti infuocati, sparati da sti complessati. E c'è che tu sei la mira, c'è che ti prendono alle spalle, c'è che c'è una tribù di bulli che balla sulle tue balle. Ti insulta pure il datore di lavoro, quell'avaro, gli vorresti dire: caro, vedi questo muro, ci starebbe bene il tuo volto come trofeo. Passeresti da vittima a reo, come Teo con l'Ideo faresti ridere. Lascia perdere ste questioni, siamo umani, nelle mani dei minchioni gli amiconi fanno di te carta straccia. Tamponi una Ferrari ed il tipo ti sputa in faccia. La tua donna t'ha fatto cornuto, se ti hanno portato al limite, beh, tu resta muto. Abbi pazienza, Puccio Puccio Renza, tanto se meni e se insulti ti ritrovi al punto di partenza. Abbi pazienza, Puccio Puccio Renza, tanto se meni e se insulti ti ritrovi al punto di partenza. C'è chi fa della riffa il suo fine e ti opprime per stare bene. Fa il forte ma è debole, fa il grande ma è memole il microbo. Mette alle strette come tra le tette di un acaro. Ignoralo così lo umili, ne fai carne con cili. Ma se gli vai appresso come a Trento con cili, prendi esempio da uomini grandi come Gandhi. Dai tanti non violenti diventati santi e importanti. Sono loro che cambiano il mondo fino in fondo. Chi crede nelle bombe è un po' coglione, con rispetto parlando. Stando a ciò che vedo è un paradosso che pacifisti siano violenti lungo il percorso dei cortei. Ehi, ci sei? Ma sei pazzo? O credi nel rispetto o credi nello scazzo? Se c'è chi provoca tu non alimentargli il fuoco, tanto serve a poco e faresti solo il suo gioco. Abbi pazienza, Puccio Puccio Renza, tanto se meni e se insulti ti ritrovi al punto di partenza. Abbi pazienza, Puccio Puccio Renza, tanto se meni e se insulti ti ritrovi al punto di partenza. Ed ora mi rivolgo a te che fai di te misura della terra intera. Ogni sera con la stessa tiritera. Io sono, io faccio, io prendo, io riduco a straccio. Mi sa che i neuroni te li hanno messi un po' a casaccio. Se hai un colpo tienilo, se hai un dio temilo. Il prossimo è facile odiarlo, se sei forte amalo. Che a fare stragi siamo tutti capaci. So che sono più le prede degli uccelli rapaci. Taciturno, aspetto il turno e solo se mi tocca farlo. Più che Robby faccio il Gary parlo, come un merlo. Vengo a darti rogna, questa è la mia merda magna. Scendi dall'albero della cuccagna, smetti di fare il piragna, merluzzo, tira via la testa dalla sabbia, struzzo, vieni ad affrontarmi, dimmi che sono un fesso, io non risponderò, ma ripeterò me stesso. Abbi pazienza, Puccio Puccio Renza, tanto se meni e se insulti, ti ritrovi al punto di partenza. Abbi pazienza, Puccio Puccio Renza, tanto se meni e se insulti, ti ritrovi al punto di partenza.